vago nell'aurora solo per le strade della storia. Il mio passo si confonde, perso tra il cullare delle onde. Nel vicolo distratto, sopra un muro nero siede un gatto. Al suono del cristallo, il sprono, poi galoppo il mio cavallo. Un elmo nella notte, tra luce, tra le case, biglie storte. La legione che avanza si scontra con la nostra resistenza. E furono poi schianti e tardi arroventati nelle carni. Batte nella notte, libero il mio cuore, batte, non nella notte, su carri scintillanti, il sangue sfuggi a tiro, resistenze, nel buio delle tombe, la bruna terra accolse la sua gente. A poche sospendere il tempo, comprendere il dato com'è. Ehi, a poche ciò che appare, ciò che è successo non è. Ehi, a poche sospendere il tempo, comprendere il dato com'è. E la poche, ciò che appare, ciò che è successo non è. Sospendere il tempo, comprendere il dato com'è. E a poche, ciò che appare, ciò che è successo non è. E a poche,